con Natalia Cangi, direttrice dell'Archivio Diaristico Nazionale, per parlare della 35ª edizione del premio Pieve Saverio Tutino. A Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, dal 12 al 15 settembre 2019. Natalia, ben trovata. Buonasera e grazie, grazie davvero. E questa occasione per parlare del nostro festival che si aprirà proprio a una manciata di giorni. Partiamo direi dall'archivio, cominciamo tutto da lì. Eh sì, perché è iniziato tutto da qui, da qui esattamente nell'autunno del 1984, quindi questi 35 anni che rivendichiamo con questa edizione e partono appunto da quel lontano 1984, quando un giornalista, scrittore, un visionario dal nome di Saverio Tutino ideò questo straordinario luogo che da quella data dà voce a chi non ha voce. Oggi sono più di 8.500 le persone che abitano nel Palazzo dei Diari a Pieve Santo Stefano e che trovano anche una loro ragione d'esistere nel piccolo Museo del Diario, un museo di narrazione che invito tutti i radioascoltatori a visitare. Ecco, queste 8.500 storie raccontano di quel noi che noi raccontiamo. Di cui parleremo appunto nella 35ª edizione. L'abbiamo chiamata 35 di noi, proprio per includere in questo noi tutta la comunità dei diaristi, delle persone che hanno lasciato e che continuano a lasciare traccia in archivio, ma anche dei tanti amici che ci seguono da sempre. Come saranno strutturate queste giornate? Tanto saranno giornate molto, molto piene. Noi chiediamo una prova di resistenza a chi ci viene a trovare a Pieve, perché Pieve si deve un po' conquistare, è un paese, diciamo, un po' marginale rispetto alla Toscana, quella che è più celebrata. Noi siamo un paese di confine tra l'Emilia-Romagna, l'Umbria, le Marche, cioè siamo in quella punta estrema. Quindi le persone che arrivano certamente devono essere sottoposte a una piccola prova che è essenzialmente quella di mettersi in ascolto, quindi ascoltare le storie ed essere loro stesse, come quest'anno chiederemo, di essere protagonisti delle storie in questa narrazione che ci avvolgerà a partire da giovedì, che è l'inizio del premio. Inizieremo inaugurando una mostra, il tesoro dell'archivio, che è una mostra dei migliori originali ed è necessariamente una selezione di originali arrivati, di testi autografi arrivati in questi 35 anni, e alle 18:30 ci sarà un primo incontro che prelude poi allo spettacolo teatrale della sera, che è lo spettacolo è Butterfly on the Flower. In realtà l'incontro che lo precede alle ore 18:30 è un incontro che parla di noi attraverso un periodo, attraverso il 68, ma non soltanto il 68 vissuto in Italia, ma vissuto in Francia, in Croazia e Portogallo. E questo noi qua è legato ad un progetto che si chiama Start the Future, un progetto che è stato finanziato nell'ambito dell'anno europeo del patrimonio culturale e che aveva come, diciamo così, come obiettivo, come grande stimolo, ma anche come grande ambizione, quello di creare una figura a metà tra l'archivista, diciamo così, e colui che offre contenuti al teatro in particolare. E quindi questo spettacolo è la sintesi di questo progetto, è una sintesi eccellente perché mette in campo linguaggi molto diversi tra di loro, tutti legati dal filo della memoria, o meglio dalle memorie delle persone che hanno vissuto quegli anni. Quindi si parla di giovani che avevano nel 68 20 anni, che ne avevano 30 e che ne avevano 40. Queste tre fasce di età si proiettano in quel periodo attraverso una narrazione che necessariamente è una narrazione teatrale, ma è una narrazione europea. Quindi allarghiamo, sicuramente spalanchiamo le porte. Poi il venerdì iniziamo alle ore 10, anche qui con una mise en espace. Il teatro è un eccellente strumento per raccontare la vita delle persone, lo sappiamo bene. In questo caso la mise en espace Lazio sarà curata da Andrea Biagiotti, avrà un particolare riflesso su un progetto che l'archivio sta facendo non da solo, già da 7 anni, il progetto di immediati multimediali migranti, e qui si parlerà di arrivi di giovani donne, di giovani uomini che tra il 2017 e il 2018 sono arrivati nel territorio italiano, quindi un archivio che non guarda solo al passato ma che è saldamente proiettato nel presente. Poi ci saranno incontri di presentazione del primo libro che presenteremo, è Se il mare finisce, anche qui parleremo del nostro progetto Dimmi. Alle ore 15 di venerdì ci sarà un incontro particolarmente importante, che è quello con Paolo Borrometi, a cui attribuiremo il premio Tutino giornalista 2019, la premiazione del concorso Dimmi, che vedrà veramente arrivare da ogni parte d'Italia, forse anche da qualche parte d'Europa, persone che arrivano portando appunto la loro storia, persone che hanno migrato e che stanno migrando, continuano a migrare. I temi delle migrazioni sono molto presenti in questo archivio, che chiaramente le raccoglie da sempre, pensando all'immigrazione italiana, che poi sarà protagonista di un incontro del sabato mattina. Per tornare venerdì chiuderemo la seconda giornata del premio con un altro spettacolo teatrale, anche questo, come quello del giovedì, prende spunto da una ricerca, da un lavoro di archivio, e questa volta però il tema non è più storicizzato come poteva esserlo il 68 in Butterfly on Flowers. Questa volta il tema è più riflesso sulla malattia, più riflesso sulla depressione. Anche qui la drammaturgia parte da un diario che è conservato a Viale Santo Stefano, ma vorrei allargare e dire che non è solo quello è stato lo spunto, ma poi altri diari hanno concorso a formare questo spettacolo. E Something About You racconta veramente la storia di due figli che vivono con una madre in silenzio da 15 anni, e questa madre a un certo punto, un giorno, irrompe nella loro vita con un biglietto dicendo che lei ritarderà perché va al funerale di una sua amica depressa che si è tolta la vita. Questo atto rivoluzionario per questi figli sconvolgerà necessariamente la loro vita, che era una vita abituata al silenzio, e piano piano, non senza conflitti, si ristabilirà un dialogo. Quindi ancora una volta l'archivio che diventa fucina di contenuti e che si offre all'esterno in quello straordinario modo che ci ha insegnato Saverio Tutino, che ci diceva che le storie non dovevano essere semplicemente depositate ma dovevano avere una nuova vita. Lui parlava di vivaio della memoria, ecco, questo è quello che cercheremo di fare. Sabato riprenderemo dalle ore 10, sabato 14 settembre, parlando di un progetto che è bellissimo, che si chiama Italiani all'estero. Questa volta parliamo degli italiani che vanno all'estero. È un progetto finanziato dal Ministero degli Esteri che si rivolge alle comunità degli italiani all'estero. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato una piattaforma tematica che parla di storia di immigrazione dalla fine dell'Ottocento ai nostri giorni, e che racconta di italiani che sono andati in ogni dove. È un percorso geolocalizzato, referenziato, introdotto giornalisticamente, insomma sarà veramente un altro momento interessante. Poi proseguiremo con le presentazioni di libri, ma andremo anche a toccare quello che è il 35 di noi, ovvero ci saranno due scrittori che sono due premi strega, Melania Mazzucco, che è un'amica dell'archivio in giuria nazionale da moltissimi anni, e Paolo Cognetti, che dialogheranno insieme e parleranno di quelle storie che sono nel loro cuore, che sono storie dell'archivio. Un altro 35 di noi sarà affidato ad altrettanti amici dell'archivio, sono Antonio Gibelli, Pietro Clemente, Patrizia Gabrielli, Evelina Sant'Angelo, Vanessa Roghi, Stefano Pivato. Ecco, loro racconteranno delle storie che sono rimaste nel loro cuore, perché poi sono persone che ci frequentano, ci conoscono, e alcuni sono membri della giuria nazionale del Premio Pieve, e metteranno in relazione questa loro narrazione di storie che non hanno mai visto la luce, si può dire, attraverso pubblicazioni, ma che sono appunto rimaste nei loro cuori, al loro lavoro. Abbiamo citato nella presentazione alcuni libri che si ricollegano alla storia che poi i nostri amici racconteranno in pubblico. La sera Terza sera, terzo spettacolo teatrale, questa volta è Mario Perrotta che sarà in scena con Il nome del padre. Il rapporto tra l'archivio e Perrotta è un rapporto ultra decennale. Mario Perrotta è l'autore del Paese dei Diari, uscito nel 2009, che ci rappresenta e racconta moltissimo di noi, e noi chiaramente ogni qualvolta Perrotta ha un nuovo spettacolo chiediamo a lui di portarlo sul palco di Pieve. Questo spettacolo è uno spettacolo che in particolare lo abbiamo visto subito che poteva essere interessante, anche se questa volta non parla di noi, perché Milite Ignoto era stato fatto attraverso testimonianze dell'archivio sulla Prima Guerra Mondiale. Beh, questo spettacolo non parla di noi, ma parla della figura del padre. Ecco, mi piace pensare che forse c'è un Trédignon, quello spettacolo del venerdì dove sono figli protagonisti. Qui c'è un padre protagonista, un padre dei nostri giorni, e qui Perrotta è veramente eccezionale, perché si fa in tre padri: un giornalista, un imprenditore, un operaio. I tre padri però non riescono più a stabilire un rapporto con i figli. Ecco, questi temi intimi di relazioni, che sono poi alla base delle storie, saranno temi protagonisti delle tre serate teatrali, ma certamente sono anche protagonisti delle storie dell'archivio. E infine la domenica è giorno clou, perché si comincia con la mattina, dove 10 storie verranno narrate in una piazzetta dai protagonisti, dalle persone che le hanno scritte, con sottolineature musicali e interventi teatrali di lettura. E poi c'è il pomeriggio, che è la manifestazione conclusiva, diciamo l'evento più seguito del premio, uno degli eventi più seguiti, dove verrà proclamato il vincitore del 2019. Sono 8 storie straordinarie. Si va da Una figlia del Risorgimento, nata nel 1867, a due persone che intrecciano una relazione amorosa per 50 anni, dal 1946 al 1998. In mezzo c'è il colonialismo, le guerre mondiali, ma anche il boom economico degli anni 60. Insomma, c'è il solito mondo che riusciamo a far affiorare dal basso, e ci sarà, oltre che la proclamazione del vincitore, un premio, il premio Città del Diario, che quest'anno sarà conferito a Pupi Avati. Credo di aver fatto una panoramica, ma sicuramente mi sarò persa qualcosa per strada, però ecco, questo sarà il programma in grande sintesi della 35ª edizione. Per maggiori dettagli e informazioni ci sono dei riferimenti internet. Sì, c'è una pagina dedicata al Premio Pieve, che è appunto molto semplice, premiopieve.it. Ci sono i nostri canali social, che chiaramente restituiscono in tempo reale tutto quello che avviene, proprio nel racconto di queste storie, che lo dico già da ora, saranno più di 35. All'inizio pensavamo, sarebbe bello far coincidere il 35 di noi con 35 narrazioni. Beh, abbiamo scoperto che mettendo insieme tutti gli appuntamenti della 35ª edizione andremo a raccontare molte, molte più storie rispetto a quelle dichiarate. Insomma, faremo del nostro meglio per coinvolgere in questa narrazione continua, che vorremmo veramente far vivere per le strade, per le piazze di Pieve, e faremo in modo, insomma, che tutte le persone che parteciperanno al premio siano coinvolte da questo progetto. 35ª edizione del premio Pieve Saverio Tutino a Pieve Santo Stefano, provincia di Arezzo, dal 12 al 15 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice dell'Archivio Diaristico Nazionale, Natalia Cangi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie molte, grazie, a presto, arrivederci.